e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ma non mi sei ancora andata dal parrucco? È vero, ci andrò, ma ho già cucinato le lenticchie e ho comprato anche le mutande rosse, gli slip. Io non ci andrò, ma noto e constato con piacere che sei legata alle tradizioni. E allora, con chi lo passerai questo Capodanno? Andrai a ballare o resterai a casa? Ballerò a casa e farò 4 salti con 4 amici. Non mi spaventare però la grande Emma, perché con i botti sappiamo che i cani si angosciano. Dimmi però la verità, ti piace o non ti piace Capodanno? È una festa sentita per te o, come per molti di noi, un pochino mi ci metto anche io dentro, una festa obbligata? Beh, Deborina, dipende un po' dagli anni. Come spesso succede, quando non hai grandi aspettative, la festa viene bene. Ma che dici se girassimo tutte queste domande ai nostri amici che ci stanno ascoltando? Certo. Allora, come, con chi, con quale spirito festeggeranno se lo faranno il Capodanno? 800 24 0024. Mi sembra un'ottima idea. Ti leggo anche cosa scrive questa mattina La Stampa in una serie di pagine dedicate proprio al veglione. Come ti gestisco la ansia da prestazione del veglione perfetto. E allora, oggi, per l'ultima volta, l'ultima puntata del 2013 di Cuore e Denari, lasciami dire: partiamo, e che la fortuna ci assista sia per il cuore che per i denari. Essere e benessere. Cosa c'è in un tappo di spumante che a mezzanotte in punto salta per aria, magari accompagnato da applausi, baci sotto i vischi, fuochi artificiali che si vedono da lontano, che si alzano nel cielo? Forse c'è sicuramente un anno che è finito e ce n'è uno che sta per arrivare. Di quello appena trascorso, cara Deborina, noi conosciamo tutto ciò che di bello e di brutto ha portato nella nostra vita. Quello che ci aspetta è un po' un punto interrogativo, c'è l'incognita di ciò che sarà, come succede ogni anno. Questo tempo, lo sappiamo bene, è tempo di bilanci e di nuovi propositi. Li faremo anche noi questa mattina a Cuore e Denari, naturalmente sugli aspetti e i temi di nostra competenza, ma voi commentate con noi questi argomenti, raccontateci questo vostro Capodanno a tavola e non, i vostri buoni propositi, i risultati ottenuti lo scorso anno e gli obiettivi che invece avete mancato, delusioni cocenti e soddisfazioni inaspettate, chi li presi e chi li persi, soldi guadagnati e soldi spesi. 800 24 0024 per intervenire in diretta. Se volete, scriveteci al 349 238 6666. Da domani io voglio smettere di fumare, questo vizio che mi avvelena è peggio di una nuvola che copre la luna, nell'istante che mi tuffo nel cielo come un uccello che prende il volo, è tutto grigio, tutto scolorato come il giorno che mi sono fumato. Che lo si voglia o no, un anno si chiude ed inevitabilmente si tirano le somme di quello che abbiamo fatto, di quello che non siamo riusciti a fare, delle occasioni perse, della fatica, ma anche delle soddisfazioni. Anche voi forse lo state facendo, come lo stiamo facendo un po' Deborah ed io. E dato che questa operazione è un po' difficile, perché si rischia di vedere tutto rosa o tutto nero, e invece in questi casi forse vedere un po' grigetto, va bene. Ci facciamo aiutare dalla dottoressa Manuela Trinci, psicologa in linea con noi dell'età evolutiva. Buongiorno dottoressa Trinci, benvenuta. Buongiorno e bentrovati. Buongiorno. A casa o fuori, amici o famiglia, come lo passerà lei il Capodanno? Perché che se ne dica, l'ultimo dell'anno è una festa un po' speciale, o perlomeno diversa da tutte le altre. Dunque è vero, sì, è una festa un po' speciale. Io sarò a Bologna con gli amici e poi in Piazza Grande, quindi un pensiero a Lucio Dalla, alla sua piazza e alla sua futura, direi, no? Mi sembra che sia veramente il clima per dirlo. Per questo pensavo, forse non so, sarà un po' una deformazione professionale proprio ai giovani, a quale sia ancora oggi per loro il senso di questa festa, a questi giovani, generazioni senza, generazioni no, oppure per usare la metafora di Michele Serra, gli sdraiati. Ecco, per esempio, io mi domandavo, e lo vedevo anche dai ragazzi che frequento, no, vengono in studio, in ambulatorio, eccetera, se davvero per loro l'attesa della mezzanotte è così straordinaria. Ecco, questo direi che non lo è più, perché loro escono spessissimo a mezzanotte. Certo. Quindi diciamo che forse da questo punto di vista si è un pochino appannata. Mm. Sicuramente chi si diverte tantissimo sono i between, cioè i ragazzetti tra i 9 e i 13 anni, dove questa festa ha un po' il senso dell'iniziazione, si bevono le bollicine, no? Per gli altri forse è uno sdoganamento della possibilità di sbronzarsi un pochino in più, ecco, rispetto a quello che fanno di solito. Quindi forse è una festa ancora sentita per i giovani adulti che del cambiamento colgono il positivo, possono cercare di cogliere il positivo. È una festa ancora sentita per le persone di mezza età, intendendo dai 40, dai 35 anni danteschi in poi ormai, che però la guardano forse con in una maniera più responsabile, così come una festa, io ho visto un po' difficile anche per i genitori, perché davvero c'è un'idea del futuro che è profondamente modificata. Assolutamente. Pensiamo al sole: il sole una volta si andava al mare e si era contenti perché si prendeva il sole, ora il sole è malato, la terra sta morendo, no? Quindi tutto questo pressing, uno diceva me lo butto via con il tappo di spumante che va via, oppure con il coccio buttato dalla finestra, però forse a un livello interno rimane, e rimane davvero. Ecco, quindi penso che quelle che sono le aspettative per il nuovo anno, c'è ancora margine, questo mi sembra interessante da chiedere ai nostri ascoltatori, c'è ancora margine per una speranza nel futuro, o davvero ogni volta che si ascoltano i TG, i telegiornali eccetera, i radiogiornali, tutto questo crea una situazione per cui se io ho chiesto l'altro giorno a dei ragazzini in una scuola elementare di 9 anni quale fosse la loro paura, sa cosa mi hanno risposto? No. Io ho paura del futuro. Perché lo sentono dire continuamente dai genitori, dai sì. media. E quindi ecco, pensiamo anche a come questo poi va a trasformare la mentalità dei ragazzi. Abbiamo in linea con noi Giuseppe che ci chiama da Milano, 800 24 00 24, il primo ascoltatore dell'ultima puntata del 2013. Merita un premio solo per questo. Giuseppe, buongiorno e buon anno. Buongiorno a voi e buon fine anno. Grazie. Volevo portare un po' di positività da tutte le cose che sono state dette. Vi racconto brevemente: nel 2005 decido di andare a lavorare in Francia per un'occasione di lavoro interessante, e recentemente, dopo un anno di trattative, di ricerca, finalmente ho trovato lavoro in Italia, un ottimo posto di lavoro, e quindi potrò riunirmi alla famiglia, agli amici, la fidanzata e tutto, e quindi per me il 2014 inizia sotto la migliore stella. Bravo Giuseppe, siamo felici per lei. Un po' di positività, perché ha ragione il vostro ospite che accendendo la televisione si sente davvero di tutto. Un cervello in fuga che è tornato indietro. Giuseppe, esatto. Questo ci fa molto piacere, ma adesso, dopo questa sua esperienza, ci racconti un po' come lo festeggerà questa sera, perché ritorno sempre a queste pagine che ha realizzato il quotidiano La Stampa questa mattina, che delinea un po' un profilo del Capodanno per il ventenne, il trentenne, il quarantenne. Quindi Giuseppe, lei quanti anni ha? Ecco. Allora, 40, e lo festeggiamo in Valsassina in una piccola baita di famiglia, con gli amici, ognuno porta qualcosa. Il famoso portateco di, esatto, Capodanno, che secondo, esatto, La Stampa è un'abitudine dei trentenni in questo momento. Il quarantenne invece si dedica a coriandoli, fuochi d'artificio per neutralizzare i pupi. Giuseppe, ha figli? No, io non ho figli, però sono con i miei cugini che hanno 3 bellissimi bambini. Ecco. E però non porto i fuochi di Capodanno, ho deciso di non prenderli perché sono amante degli animali e come hanno paura ho deciso di non portare. Bravo Giuseppe, bravo, ci piace. Grazie mille. In bocca al lupo Giuseppe, grazie per averci chiamato. 800 24 0024. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Ed eccoci, a proposito delle aspettative sull'anno che verrà, come abbiamo sentito nella canzone di Lucio Dalla che abbiamo richiamato anche prima, abbiamo in linea con noi un grande amico di cuore, Denari. Nicoletta, sono felice di presentarti Giorgio Dell'Arti, che saluto intanto. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, e buon anno. Buongiorno di cuore. E Denari, ecco qua, un grande giornalista e scrittore, è editorialista per La Stampa, per La Gazzetta dello Sport, fondatore del Venerdì di Repubblica, animatore del sito di Storia Italiana collegato al Corriere della Sera, 50.000.it, e quindi ne sa sia di cose passate ma anche possibilmente di quelle che verranno. E per raccontarci quello che potrà succedere nel 2014, Giorgio Dell'Arti ha scritto, e oggi ce lo presenta, un libro, Come sarà il 2014, le profezie di 60 celebrità. Intanto, Giorgio, chi sono queste celebrities che hai scelto per formulare le previsioni del prossimo anno, e soprattutto che cosa ti hanno raccontato? Ma sono 60 che appartengono a tutte le classificazioni, a tutte le categorie, perché io penso che tutti abbiamo il diritto, dovere e la sensazione anche di quello che accadrà nel futuro, quindi non è giusto intervistare solo gli economisti o solo i politici o solo gli intellettuali, ma anche gli attori, anche i pittori, anche... insomma, anche i poeti, anche le conduttrici. Giorgio, ci candidiamo per il prossimo, eh? Prossimo, sì, per il prossimo, o ne fai 62, perché noi qua di esperienze interessanti ne raccontiamo, e come dire, il sentiment che c'è tra la gente ne abbiamo un polso discreto. Giorgio, comunque questa è una candidatura. Siete impegnate fin da ora al prossimo ottimo. Questi libri si fanno per molto prima, certo, infatti, no? Tu l'hai fatto già nel corso dell'autunno. Ecco, allora raccontaci un po', allora, queste varie personalità del mondo dell'economia, della cultura, tra gli intellettuali, che cosa ti hanno raccontato, che sensazioni hanno sul 2014? C'è anche tra loro questa sfiducia che difficilmente si riesce a recuperare, come ci ha raccontato la psicologa prima? No, voglio dire due cose su questo. Allora, il 2014 è un anno difficile, e su questo non penso ci possano essere dubbi, no? Io dico, per sintetizzare queste conversazioni con questi 60 personaggi, le riassumo in questo: le ragioni che hanno provocato la crisi economica, perché quando diciamo anno difficile ci riferiamo soprattutto alla crisi economica, sono sempre lì, cioè la ragione fondamentale è il debito, il mondo è indebitato, l'Italia è indebitata in modo particolare, ma è indebitato il mondo, e quindi noi avanziamo con un fardello pesantissimo che carichiamo sui nostri figli, ma che ci impedisce anche di avere quelle politiche di stimolo, quelle politiche di sviluppo che sono necessarie, soprattutto in una società organizzata e pensata come è la società attuale, che vive nella logica dell'aumento continuo del prodotto interno lordo. E quindi questo ci mette in crisi. Su questo però voglio dire questo, perché sono rimasto anche impressionato dalle cose che ha detto la dottoressa Trinci. Cioè il futuro, la paura del futuro. Allora, il 2014 è un anno difficile, ma dov'è la vera difficoltà? È che il futuro ci chiede di trasformarci, ci chiede di essere nuovi. E noi stiamo tanto bene nella nostra cuccia, al caldo, sapendo come è fatta la nostra vita, come si svolge la nostra giornata. Gli uomini e gli esseri umani e gli esseri viventi in genere sono dei grandi routinier, guardiamo appunto anche gli animali, fanno sempre le stesse cose, si addormentano, vogliono stare sempre nello stesso posto, eccetera. Invece il futuro ci spinge alla trasformazione, in ogni caso. E da questo non si può sfuggire, quindi io vorrei dire una parola di ottimismo, non richiamandomi o nascondendo le difficoltà che ci aspettano, ma esortando tutti, cominciando da me stesso naturalmente, a non aver paura del cambiamento, a non aver paura della novità, la quale prescinde persino dalla nostra volontà, nel senso che la novità ci arriva addosso inaspettata. Anche la crisi, che è cominciata nel 2007, è arrivata tutto sommato in attesa, benché ci fossero gli elementi per capire che stava arrivando, però ci ha colto di sorpresa. Ma alla vita è sorpresa, no? Che vita è? Quindi il grande cambiamento di tutti di quest'anno sarà: facciamoci trovare pronti ai cambiamenti. Possiamo però sintetizzare un Giorgio, po' così. Ogni volta, ogni anno, da qualche anno si dice l'anno sarà difficile, dobbiamo affrontarlo, dobbiamo cambiare. Dottoressa Trinci, Giorgio Dell'Arti ha ragione, ma dobbiamo continuare a cambiare, non si finisce mai. Ormai dovremmo essere molto allenati, non avvertire più questa fatica. Eppure costa. Dottoressa. Sì, io credo che questo mi ha colpito moltissimo, stavo riflettendo sulle parole di Giorgio Dell'Arti e questo io lo vedo benissimo con i genitori, no? Nel mio lavoro c'è una grande fatica a crescere, a educare i figli, sopportare la, cioè è come se in qualche maniera le nuove generazioni si fossero davvero adattate in una corsa senza ostacoli. Cioè, lei pensi alle modificazioni alimentari che ci sono state nelle scuole, i bambini non mangiano più gli spaghetti perché fa fatica a rotolare gli spaghetti, si va alla pasta corta, capito? Oppure i panettoni sono senza canditi perché anche masticare il candito è diventata fatica. Quindi credo che davvero rimboccarsi le maniche e cogliere anche della fatica gli aspetti positivi, gli aspetti entusiasmanti, perché sono legati al cambiamento, non a così fan tutti, che ha portato poi a un'omologazione dei costumi, della pedagogia. Quindi davvero c'è bisogno della crisi, cerchiamo di cogliere gli aspetti positivi. Certo. Positivi, perché sennò chiaramente ci si paralizza e non si va avanti. Cioè, il dubbio è utile laddove è una molla per andare avanti, non laddove è una molla, una non molla di fermo. Ecco. Chiediamo ai nostri ascoltatori allora, se per l'anno che verrà si augurano più cuore, più denari. Nicoletta, cara mia, i soldi non fanno la felicità ma aiutano, cosa che diceva tua nonna, non hanno mai fatto soffrire nessuno, mai, non un hanno po' di mai quattrini. Reso, infatti, ecco. Però hai ragione Deborah, i soldi aiutano parecchio, ma è anche vero che se la salute non è tutto, senza la salute il tutto è nulla. Vogliamo andare avanti? Voglio risentire il proverbietto che mi hai raccontato ieri perché mi è piaciuto. Purtroppo perché... non me lo ricordo più esattamente perché lo abbiamo eletto, però era cammina sì sicuro chi in borsa pochi quattrini, una cosa del genere, no, che abbiamo trovato ieri, lo ripescheremo, però è un proverbio che coniuga cuore e denaro. Perfettamente. E allora, proprio spinge al cambiamento. Esatto, tra l'altro a proposito di questo, allora Giorgio Dell'Arti diceva dobbiamo trovarci pronti ai cambiamenti, sono stati anni di profondi mutamenti del tessuto economico e sociale, di fronte ai quali spesso qualcuno si è trovato impreparato e però nonostante questo come dire, spirito di Giorgio Dell'Arti che è positivo, leggendo qualcuna delle testimonianze che ha raccolto per il suo libro Come sarà il 2014, le profezie di 60 celebrità, ne voglio leggere qualcuna. Per esempio la scrittrice Dacia Maraini dice che ci saranno, secondo lei, grandi disordini nel mondo nel prossimo anno, cambiamenti in Italia, momenti di pericolo, quasi una voglia di suicidio, speriamo di no. E non resta che confidare nell'indignazione. Lo chef Gualtiero Marchesi dice che ha poche speranze nella cucina, meno di quante ne abbia negli italiani. Poi magari ne parleremo nella seconda parte del programma. Un grande sociologo, Giuseppe De Rita, dopo aver ripercorso i giorni dell'elezione del Presidente della Repubblica, nei quali girava anche il suo nome, prevede che nel 2014 pagheremo il conto della nostra immobilità, un paese immobile. Allora, che dici se noi invitassimo i nostri ascoltatori a fare la loro profezia? Bene, della ottimo. Profezia del 2014 all'800 24 0024. Abbiamo Claudio che ci chiama da Verona. Buongiorno Claudio. Claudio, buongiorno e buon anno. Buongiorno e buon anno anche a voi. Ci dica tutto. Ma guarda, io la mia profezia è solamente una, quella che ho sempre seguito fin da ragazzo, che mi hanno educato i miei genitori. Ci vuole serietà, lavoro, sacrificio e con quello si riesce a risolvere ogni problema. Io e mio figlio si è sposato a settembre, adesso gli lasciamo la nostra casa grande, noi abbiamo preso un appartamento piccolo, in modo da aiutarlo a crearsi una famiglia. È l'unica maniera, penso che la famiglia, l'unione, il volersi bene e tantissimo sacrificio sia la base per ogni sforzo di fronte a ogni problema che siamo costretti ad affrontare tutti i giorni. Certo, questa è un po' la ricetta di Claudio. Esatto, come profezia. Scusa? E come profezia, Claudio, qual è la sua? Che così Giorgio Dell'Arti appunta, Ma io la profezia, guarda, sinceramente non ne ho di profezie, spero solo che la mia famiglia e tante altre famiglie stiano bene, si vogliono bene, perché l'unica profezia è aiutarsi, volersi bene. Grazie. Se cominciamo con l'odio, con l'invidia, andiamo tutt'altra parte che migliorare questo mondo. Serietà, lavoro e sacrificio, questi i tre ingredienti del nostro ascoltatore di Verona. La sua, come dire, profezia del 2014 contiene anche questi tre aspetti. Poi magari chiederemo a Giorgio Dell'Arti qual è tra quelle raccolte la profezia che gli è piaciuta di più e quella più stravagante. Certo. Ma direi che possiamo fare anche un punto su questa vicenda che sta colpendo un po' tutti noi. L'anno si sta chiudendo con la solita tiritera dei bilanci, cosa è stato fatto e cosa si poteva fare, ma anche con la tragedia appunto di Michael Schumacher. E allora, prima di fare anche un punto della situazione, perché come avete sentito nel giornale radio, poco fa è stato divulgato il nuovo bollettino medico, che peraltro parla, Nicoletta, di un, certo, di un leggerissimo... Sì, non ci sono peggioramenti, abbiamo in linea e abbiamo il piacere di avere in linea il professor Maurizio Fornari, primario neurochirurgo dell'Istituto Humanitas di Milano Rozzano. Buongiorno. Buongiorno, dottore, buon anno. Buongiorno, professore. Ci sente? Buongiorno. Buongiorno. Professore, allora, dall'ultima ora i medici dicono ci sono ancora ematomi dappertutto, non ci sono peggioramenti, questo può essere visto come un miglioramento. Vorrei con lei fare un po' il punto della situazione e capire che cosa è successo e che cosa sta succedendo al cervello di Schumi. Ma allora, naturalmente ogni evento sanitario è amplificato dell'importanza del personaggio, perché si sta parlando di uno degli sportivi che ha vinto di più nella storia dell'umanità negli sport singoli, paragonabile su altri 3-4 sportivi, oltretutto un personaggio mediatico a livello planetario, che è stato sulle copertine di tutti i giornali per decenni. Detto questo, che è importante perché fa la differenza sicuramente. Il tono emotivo con cui vengono recepite o anche vengono diffuse le notizie cambia. Fatta questa piccola premessa, bisogna anche aggiungere che giustamente i medici che hanno in cura Schumacher sono estremamente parchi nel dare informazioni, uno, e soprattutto totalmente restii a dare una prognosi. Ricordiamoci che perché uno possa dare una prognosi realistica sia sulla vita che sulla funzione di un cervello che subisce un traumatismo così grave, devono essere passati parecchi giorni, non bastano le poche ore, a meno che ci sia un viraggio in senso negativo o positivo della condizione clinica. Ora, i fatti riassunti in maniera molto breve sono che ha avuto sicuramente un trauma commotivo, con una commozione cerebrale, perché ha perso coscienza quando è caduto. Successivamente si è ripreso e ha avuto poi un'evoluzione in due tempi con una successiva perdita di coscienza. Ora, questa perdita di coscienza sicuramente è dovuta in parte al formarsi di un ematoma nel lato destro, che è stato rimosso, sicuramente però anche a quello che si chiama un danno assonale diffuso, cioè una sofferenza diffusa del cervello, cosa su cui i medici continuano a insistere parlando di sofferenza emorragica diffusa. Questa è un po' una condizione che ha un suo grading, una variazione di gravità che possono essere determinanti in senso negativo, positivo, e che è difficilissimo in questo momento. Professore, quindi adesso è difficile fare una prognosi, ma che cosa succede? Lei come legge il secondo intervento a cui verrà sottoposto? Allora, questo vuol dire che ci sono delle speranze? Ma allora, completando il quadro di prima, cioè il trauma, la sofferenza diffusa del cervello, un ematoma rimosso, la seconda e la terza condizione, sofferenza diffusa più ematoma, significa un enorme aumento della pressione all'interno della scatola cranica. Quindi l'ematoma ha rimosso questa pressione all'interno del cranio. Nella notte evidentemente si è registrato di nuovo un aumento di questa pressione che sembra essere stato corretto rimuovendo un'altra falda di ematoma e mettendo un drenaggio ventricolare, c'è un sistema che scarica il liquido dalla testa riducendo anche questa la pressione all'interno della testa. Certo. In altri termini, quello che si può fare in un trauma in un paziente in coma è prima di tutto togliere la pressione all'interno della testa in qualunque modo, quindi togliendo sangue, togliendo del liquido o eventualmente mettendo in atto sicuramente delle misure anti-edema, e in più ancora mettendo il cervello in riposo funzionale. Perché in coma farmacologico? Perché un cervello traumatizzato, certo, deve essere a riposo totale, come qualunque altro organo del corpo umano. Il riposo del cervello è un riposo bioelettrico, dato che un organo che ha un'attività elettrica, e il riposo consiste nel mettere in anestesia totale o eventualmente nel effettuare anche un'ipotermia. Certo. Professor Fornari, io le chiederei di rimanere con noi perché noi dobbiamo fare una pausa, ritornare subito dopo insieme, e naturalmente ritorniamo con la dottoressa Manuela Trinci, l'amico Giorgio Dell'Arti. Noi siamo qua, 800 24 00 24, termineremo di completare la situazione che è emersa dal bollettino medico di Schumacher, dei medici di Grenoble, e poi torniamo al nostro bilancio di fine anno. A tra poco. E siamo tornati insieme a Cuore Denari per un bilancio di fine anno, Deborah. Un bilancio di fine anno, il vostro bilancio di fine anno, qual è? E soprattutto quali sono anche le vostre profezie per il 2014? Ormai quello che è successo lo sappiamo benissimo, diamo uno sguardo al prossimo anno, a quello che verrà, a quelli che sono i nostri obiettivi, e soprattutto su che cosa punterete? Sulla vostra salute, sulla vostra condizione di benessere, oppure sul rimpinguamento magari del portafoglio? Chissà se si usa questo termine. Però mi piace. Esatto, abbiamo fatto però anche una parentesi dedicata a questo fatto di cronaca che sta colpendo un po' tutti, le vicende di Michael Schumacher. È in una condizione ancora gravissima all'ospedale di Grenoble, un grande sportivo, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, una persona che ha vissuto sempre al limite, forse anche per questo è stato giudicato un po' in questa sua, come dire, prestazione agli estremi di questi ultimi giorni, che l'ha portato in questa situazione. Magari ne parleremo, adesso però terminiamo con dire un commento sul bollettino medico. Certo, e abbiamo ancora in linea con noi il professor Maurizio Fornari. Professore, lei ci ha illustrato un po' che cosa è capitato. Allora, tutte le manovre che sono state messe in atto in queste 48 ore, i due interventi, il drenaggio del liquido ventricolare, sicuramente tendono a ridurre la pressione all'interno della scatola cranica. Dobbiamo quindi vedere che questa pressione all'interno della scatola cranica fosse aumentata in maniera molto importante. Oltre a questo, come dicevo, è stata messa anche in atto una misura estrema, come quella di mantenere il paziente in coma farmacologico ed eventualmente in ipotermia. Comunque, per la prima volta nel bollettino appare una parola che è di miglioramento e quindi di ottimismo. Io credo che adesso è un po' la notte in cui si decide. È difficile decifrare esattamente quale sarà l'evoluzione del quadro clinico. Certamente però questa considerazione ottimistica vuol dire che probabilmente sono riuscito a ottenere il fatto di ridurre la pressione endocranica, ridurre la pressione all'interno della testa. Da lì in poi si può cominciare a sperare che lui si riprenda, ma naturalmente poi le condizioni. No, abbiamo perso il. Allora, la sentiamo un po' a tratti, ma quindi, professore, almeno incrociamo le dita, speriamo, ha anche un fisico forte, speriamo che reagisca. Grazie al professor Fornari. Grazie per essere stato con e noi. Buon anno soprattutto, professor Fornari, arrivederci, a risentirci. Grazie mille. Buona giornata. Volevo commentare questa storia di Michael Schumacher con Giorgio Dell'Arti, perché, Giorgio, spesso gli italiani si indispettiscono quando si parla delle vicende di questi campioni, molto ricchi, vivono la loro vita al massimo e spesso rappresentano anche dei modelli a cui guardano molti giovani, modelli però inarrivabili. Poi siamo tutti pronti a stringerci davanti a queste tragedie come questa, appunto, del più grande campione di tutti i tempi di Formula 1. Che te ne sembra? Ma questo è abbastanza comprensibile, perché poi i campioni dello sport, i campioni dell'automobilismo fanno le veci di quello che una volta erano le figure mitologiche, no? Quindi le si guarda sempre con sentimenti misti di invidia e di ammirazione. Quando poi gli succede una disgrazia, quando cadono in disgrazia, per fortuna emerge anche la compassione, che è uno dei sentimenti più nobili, quindi questo trovo comprensibile. No, voglio aggiungere però, nel caso di Schumacher, una questione legata a quello che dicevamo prima, e cioè l'arrivo di un fatto nuovo nella vita di questo uomo molto ricco, molto felice. Mi pare che abitasse in Svizzera, che abiti in Svizzera, i figli, la moglie, tutto bene, tutto meraviglioso. Arriva. Improvvisamente la sorte ti regala un problema di queste dimensioni. Naturalmente noi sappiamo, lo immaginiamo, che non è solo questione di vita o di morte, nell'eventualità che, nella quale confidiamo tutti che superi e resti vivo, bisogna vedere poi come sarà vivo e che cosa insegnerà a lui e dovrebbe insegnare anche a noi un evento di questo genere. Ecco qua un uomo ricco, certo, fortunato, invidiabile, che improvvisamente precipita nello spazio di un secondo in una situazione così difficile. Cioè la novità ci viene addosso, in questo caso una novità negativa, ma tante volte anche una novità positiva, la novità ci viene addosso anche indipendentemente dalla nostra volontà, anche se noi cerchiamo di mantenere lo statu quo, di conservare quello che abbiamo e crediamo che qualunque cambiamento sia foriero di disgrazia. Sì, ma la poi la novità ci arriva. Certo. Addosso lo stesso. Tra l'altro, dottoressa Trinci, insomma, suona un po' strano, no? Lui ha rischiato tante volte la vita in pista, adesso la sua vita è a rischio per una caduta sugli sci. È vero, sciava fuori pista e secondo il Time, che cita fonti investigative, andava molto forte, ma che a costargli la vita sia una discesa fa riflettere e ci fa, no, ricollegare al tema della fatalità a cui accennava Giorgio Dell'Arti. Una fatalità magari aiutata dal non rispetto delle regole, ma si tratta pur sempre di fatalità. Insomma, come a dire, no, quando viene la tua ora. Ecco, esatto. Ecco. Dottoressa Trinci. Guardi, senta, io in questa situazione così, appunto, Giorgio ha usato la parola compassione, no, che ci deve un po' muovere tutti. Io non mi sento di fare il grillo parlante sull'osservanza delle regole, si potrebbe sciorinare un tomo rispetto ai genitori, quindi riuscire anche il ragazzino dietro, dell'uso delle regole, eccetera, eccetera. Io credo che quando appunto facevo l'università c'era una scritta rossa sul muro di Piazza Brunelleschi di filosofia e c'era scritto vivi come se tu non dovessi morire mai, vivi come se tu dovessi morire subito. Io credo che qui è un haiku magnifico, è bellissimo. Infatti io credo che qui non, cioè, che qui ci si possa fermare, ecco. Dottoressa, e lo chiedo anche, mi piacerebbe anche sentire il parere di Giorgio. Molti credono che gli atleti, che come Schumacher sono stati campioni in sport estremi, non possono rinunciare al rush, all'adrenalina, come se fossero in qualche modo in astinenza da pericolo. Dottoressa Trinci, come psicologa. Dunque, senta, qui bisognerebbe davvero, per non essere approssimativi, uno dovrebbe conoscere meglio la vita di quest'uomo, che cosa l'ha mosso. Sicuramente è vero, no? Quando uno è abituato a avere adrenalina continua, a vivere sul bordo, sul pericolo, il pericolo è il mio mestiere, mi ricordo una vecchissima trasmissione televisiva, cioè è evidente che poi non ne puoi fare a meno, però se sia questo che lo ha condotto all'incidente. Dicono invece che Schumacher fosse uno prudente, molto prudente. Ma io non volevo... ricordiamoci che era anche con suo figlio di 14 anni e non credo proprio, come si suol dire, che se la sia andata a cercare. Ecco. Ma infatti anch'io ho questa netta convinzione. Cioè, la trovo un po' tirata voler, no, Giorgio, descrivere questi atleti che hanno fatto sport estremi come delle persone che non riescono, no, a trattenersi dal mettersi in situazioni rischiose. Giorgio, ma sai, lui, da quello che ho letto da altre biografie, aveva la passione della velocità, quindi andava cercando la velocità come una delle componenti fondamentali della sua vita. Io penso che un essere umano ha dalla natura il più grande regalo quando ha una passione di qualunque tipo, non importa per che cosa o per chi. E Schumacher aveva questo, mi viene in mente, aveva, l'ho detto all'imperfetto e chiedo scusa, ha questo, grande passione per la velocità, e mi è venuto in mente, mentre voi parlavate, la storia di Alex Zanardi, che come ricorderete perso le gambe in una corsa automobilistica, tutte e due le gambe, dopodiché corre ancora, va ancora cercando la gara, va ancora cercando il confronto, cioè non ha smesso di vivere. E tutto sommato io penso che il senso di questa tragedia che è capitata a Schumacher stia proprio in questo: non smetto di vivere, non perdo il senso della vita, la mia vita è correre, prima in automobile, adesso con gli sci, e io continuo a correre. E io ammiro questo, cioè trovo che in questo ci sia una delle grandezze della natura umana, nel coltivare la propria passione fino all'ultimo rischio. Direi che adesso possiamo lasciare i medici fare il loro lavoro, speriamo di avere buone notizie nei prossimi giorni, lasciamo Michael Schumacher appunto riposare e chiudiamo questa parentesi per riaprirla invece l'altra, quella che, dalla quale siamo partite, Nicoletta. Certo, ultimo dell'anno, un giorno un po' speciale, sia anche per chi ne vuole in qualche modo prendere un po' le distanze, no? Dai, Capodanno, non faccio nulla, ma insomma comunque è qualche cosa di speciale c'è nell'aria. Uno spumantino bisogna berlo, insomma. E poi per qualche riflessione la fai. 800 24 00 24, ci sono poi persone che sono molto legate alla tradizione. Che cosa non rinunci tu, ad esempio, a Capodanno? Credo lenticchie e zampone. Vedi anche che perché il dottor Attilio Speciani, che è un nostro ospite molto frequente, immunologo, nutrizionista eccetera, me le ha concesse e dice che comunque se cucinate chiaramente senza esagerazione si possono assolutamente mangiare, per cui... E poi alla donna di denari vuoi far mancare le lenticchie? Che portano soldi, ma stiamo scherzando. 800 24 00 24, se volete raccontarci la profezia del 2014 prendendo proprio spunto dal libro di Giorgio Dell'Arti, quale sarà, e se volete anche raccontarci come passerete questo fine dell'anno e soprattutto a quale tradizione non potete rinunciare. Ecco, Nicoletta, e mutande slip rosse. Rossi, assolutamente. Dottoressa Trinci, le mutande lei? Rosse? Aiuto! un po' di tradizioni secondo me fanno bene, perché denotano anche un radicamento, cioè per i ragazzini, per i bambini, ma anche per noi mangiare le lenticchie, fare le cose che sono sempre fatte. Sentiamo. Io penso che dal radicamento possa poi nascere, passatemi la rima, il cambiamento. Dai, mi piace questo. Se una persona è ben radicata, ce la fa anche accettare il radicamento. Dal radicamento può arrivare il cambiamento, ottimo. E noi andiamo a Modena. A Modena perché c'è questo bellissimo auspicio di Giuseppina che vogliamo divulgare immediatamente. Giuseppina, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. E auguri. Auguri a tutte e due e a tutti, evidentemente. Io faccio un augurio speciale ai giovani che devono crescere, devono riuscire a realizzare le loro aspirazioni, però impegnandosi tanto. Brava. Nello studio e soprattutto verso se stessi, mai mollare. Scusate, sono emozionata. Emozionata, la sentiamo Giuseppina, ma c'è un motivo particolare, a parte il fatto di parlare con noi che evidentemente no, ma so che lei ha un pensiero, perché lo vedo nelle anticipazioni che ci hanno fatto le nostre straordinarie colleghe del centralino, un pensiero per sua figlia. Faccio un augurio a mia figlia che si chiama Ada, che realizzi i suoi sogni, mantenendo però il rispetto per se stessa. Integrità brava. E dignità. Perché, guardi, Giuseppina, noi ai figli dobbiamo anche dare, come dice spesso Alberto Pellai in trasmissione, che la dottoressa Trinci conosce bene come i nostri ascoltatori, ai figli bisogna dare anche un paio di ali. E quindi noi abbiamo dato le radici, ma dobbiamo anche dotarle di un paio di ali. Ti ricordi quando abbiamo avuto la coppia con la famiglia numerosissima? Sì. Il papà, adesso non mi ricordo come si chiama, diceva: i figli non sono nostri. Per cui, raccontandoci le esperienze sulle quali stava instradando appunto la sua numerosissima famiglia, e ci raccontava appunto tutto quello che questi 10 figli, 11 forse, stavano facendo in questo momento, lui ci diceva: d'altronde non sono nostri. Per Giuseppina, cui... auguri ad Ada e sicuramente realizzerai i suoi progetti e rimarrà Ada. 800 24 00 24, andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade. Andate piano, mi raccomando. 3, 2, 1... È la notte più importante della mia carriera. Tutta questa gente è arrivata da ogni parte del mondo solo per il piacere di essere qui. Non gettateli tanto per farlo. Devono danzare nel vento come per magia. Accade solo una volta l'anno, alla vigilia del nuovo anno. Va bene. Dove anche un momento di disperazione può diventare romantico. Lo scorso anno ho conosciuto una ragazza straordinaria. E stai per incontrarla, vero? Un proposito può diventare una rivelazione. La lista è lunga, meglio se cominci. I miei propositi per l'anno nuovo, se mi aiuti, ti regalo questi. 4 biglietti per la festa, hai scelto il tipo giusto. E quali sono i vostri propositi per l'anno nuovo? 800 24 00 24. Magari un capodanno a Times Square con la sfera che scende, perché no? L'anno prossimo, magari, visto che quest'anno siamo qua, ma sentiamo gli auspici, i desideri, quello che vorrebbero fare i nostri ascoltatori, ce lo stanno raccontando all'800 24 00 24. Noi continueremo a commentare le vostre idee, i vostri buoni propositi, i vostri presagi anche, presentimenti sull'anno nuovo con i nostri ospiti che poi vi ritorneremo a presentare. Ma adesso sentiamo, andiamo a Brescia o a Brescia? Abbiamo due ascoltatori da Brescia. Marco, allora. Marco, buongiorno. Buongiorno. Molto affranto, molto affranto, perché il suo maestro del suo coro gli ha detto: chiudiamo baracche e burattini, ma qua che cosa succede adesso? Succede che, appunto, come dicevate voi, l'8 dicembre riceviamo un'email, due righe di email del nostro vecchio maestro, dice basta, chiudo il coro senza dare spiegazioni, e noi non ci siamo rassegnati, insomma. Quindi dal giorno dopo ci siamo incontrati in un aperitivo, abbiamo deciso che bisognava fare qualcosa e l'abbiamo fatto. Siamo tornati al Conservatorio di Brescia, abbiamo cercato un nuovo maestro che si è reso disponibile, e adesso dall'8 gennaio molto probabilmente ricominceremo a cantare tutti insieme con questo e vai maestro. Sono contenta. Bravo Marco, insomma. Ci tenevo tantissimo, perché in questo coro ho conosciuto quella che è la mia compagna, e vedi che quindi poi devo andare a cantare, è sempre, ci siamo un capiti. Po' l'amore, è l'amore, l'amore. No, però lui, bravo, non ha pensato né a questioni economiche per il suo nuovo anno, né ha detto farò chissà che cosa, vuole cantare, vuole divertirsi in questo coro e realizzarsi in questo suo hobby. Marco, complimenti. Esatto. Grazie. Grazie, grazie a lei e buon anno. Grazie. Andiamo, grazie. Grazie, grazie. Grazie. Siamo due scemi. Grazie, buongiorno. Lo chiudiamo da scemo e lo apriremo peggio. Grazie, grazie. Buongiorno, sono Grazia, telefono anch'io da Brescia. Infatti. Volevo, ecco, sono d'accordo con tutto quello che avete detto fino ad ora, io vi ascolto sempre, anche a proposito dei figli che devono avere le loro ani. È uno dei motivi forse per cui tra un mese, come ho già detto alla vostra telefonista, io compirò 70 anni. Mm-hmm. Brava! Ma sono 70 anni felici, felici perché io ho vissuto con grande serenità tutti i passaggi della mia vita, mm-hmm. soprattutto, ecco, grazie anche al rapporto che ho con mio marito, con cui sono sposata da 48 anni e ci conosciamo da 55, cioè da quando ne avevo 15, è stato il... Ce l'ha sempre avuto con lei, insomma, grazie. Su questo marito se l'è sempre portato appresso. Sì, sì, lui ha portato appresso me, perché siamo cresciuti molto insieme. E viceversa, certo. Sì, sì, sì. E comunque, dicevo che io quando ero giovane, ero anche belloccia, dicevo chissà 70 anni come sarò, brutta, eccetera. Invece non è affatto vero. Io, come ho sentito nella vostra trasmissione, mi presento sempre con un sorriso alle persone, perciò presentandomi con un sorriso, perché mi viene spontaneo, mm-hmm. hai già un'empatia con le, perché una persona che si presenta con un sorriso è già ben disposta nei tuoi confronti. E io non sono mai entrata in un istituto di bellezza, mi arrangio, faccio tutto il mio fai da te, tutto, però vedo che ho ancora funziona. Guardi, grazie. Grazie, sta parlando con due scombinate che pure penso che non abbiano mai visto neanche lontano anni luce un centro di bellezza, però insomma, comunque grazie, lei è un bel modello per noi. Ecco, vi dirò, la mia la ricetta è una bella dormita, che dormo benissimo. Eccola là. E mangiare, sono quasi essenzialmente vegetariana, perciò io lo zampone penso, ma non per moda, ma per scelta, per gusto, penso che non lo mangerò forse le lenticchie poche perché è in grasso. Guardi che assist, come dico io sempre, che ci ha dato. Grazie, buon anno a lei, alla sua famiglia. E allora, grazie, mi seguo lenticchie... sempre con piacere. Queste lenticchie le cucineremo sicuramente. Le mangeremo perché non possono mancare. Dottoressa Trinci, la tradizione, l'ha detta, va rispettata. Sulle mutande lei mi ha un po' svicolato. E vabbè. Dottoressa Trinci. No, tra l'altro molto sincera, perché poteva anche dire sì, le metto, invece è voluta essere sincera. Secondo me le mette. Giorgio, tu metterai Giorgio qualcosa di Giorgio rosso? Giorgio dell'Arti, adesso regalaci questa tua immagine in mutande. No, io non faccio niente. Ma io no. La mia tradizione personale è che a Capodanno di solito vado a letto presto. Ah, però non è l'unico, guarda. No, noi... per essere un po' controcorrente, anche questa è una tradizione, mm-hmm. se lo fai tutti gli anni. Ma vado a letto presto, come vado a letto presto in certo. genere, tranne quando non c'ho botte di insonnia che mi capitano pure a me. Guarda, d'altronde con il ritmo di lavoro che hai, perché scrivi, produci tantissimo, ma lasciaci una previsione, poi ti lasciamo andare ai tuoi impegni, Giorgio, perché anche dal punto di vista economico, vorremmo avere un po' con te una previsione, magari sintetizzando quelle che hai raccolto nel tuo libro di profezie. Noi abbiamo avuto un anno molto soddisfacente dal punto di vista dei mercati finanziari, perché abbiamo stamattina sui giornali tutti i bilanci di questo anno di borsa. Ma quella è la liquidità, eccolo là. L'economia reale invece racconta un'altra cosa. La grande piaga, perché non possiamo definirla diversamente, di questo momento del nostro paese è il lavoro. Tasso di disoccupazione altissimo, soprattutto fra la popolazione giovanile alla quale oggi rivolgiamo un pensiero speciale. Usciremo da questo tunnel, Giorgio, che ne pensi? Dunque, allora cioè, avrei un sacco di cose da dire. La prima cosa che voglio dire è questa, però voglio fare gli auguri pure ai vecchi, perché noi parliamo sempre dei giovani e pare che essere vecchi sia diventata una colpa, ma i vecchi sono un pozzo di sapienza e di competenza, tutte qualità, diciamo, che sembrano non così importanti oggi. Mi viene in mente questa ragazza che Renzi ha messo a fare la politica del lavoro, che ha sbagliato ministro. Lì c'è un difetto di competenza oltre che di intelligenza, diciamo, no? Quindi anche la mitizzazione del giovane, attenti, non è solo il giovane, tutti dobbiamo portare qualche cosa, non è solo i giovani, non è che prendendo un 38enne e mandando via un 60enne ci si guadagna qualcosa. Problema. Cioè, questi schemi sono schemi crepiti, se mi passi questa brutta parola, ma d'altra parte bisogna anche sanzionarli, perché comincia a diventare pesante questa storia. Non tutto ciò che è giovane è giusto, certo, però bisogna in qualche maniera però valorizzare le iniziative che li mettono sul mercato del lavoro, perché anche questo va fatto, no? E qua a quanto pare le iniziative degli ultimi anni non hanno raggiunto questi obiettivi. Allora, ti voglio dire questo: siamo bisognosi di lavoro, ma non siamo bisognosi di posti, però concetti diversi. La differenza, cioè, lavorare vuol dire produrre, avere idee, avere persone che ci chiedono le cose che facciamo, perché sai, produrre senza che ci sia domanda è abbastanza inutile, e quindi bisogna, da questo punto di vista, il paese va ringiovanito, perché certamente i giovani sono quelli che si sposano, che mettono su casa, nel salotto, cioè sono quelli che alimentano la domanda. Noi abbiamo avuto per mezzo secolo una politica quasi una politica del figlio unico indotta. Ma no, persino la Cina sta facendo passi avanti a questo punto di vista, quindi anche noi. Adesso ne paghiamo le conseguenze. Benissimo. Io penso che dobbiamo aprire all'immigrazione con grande forza per cambiare questo. I giovani andiamoceli a prendere da un'altra parte, visto che non ci stanno. Benissimo. Allora, Giorgio, noi tra un attimo ti salutiamo, ma vogliamo salutare anche la dottoressa Trinci. Certo. Poi dottoressa magari Trinci o ci regala un haiku, una riflessione, un augurio speciale, una mutanda rossa che ci va bene lo stesso, una strategia per affrontare questo cambiamento che è inevitabile. Dunque, io vi regalo un farmaco omeopatico che sta in due parole: per crescere bisogna pensare, che è una parola che è davvero caduta in disuso. E questa un po' di malinconia, un po' di nostalgia che accompagnano inevitabilmente un anno che passa possono aiutarci in questa direzione qui, perché ci siamo davvero abituati a una fabbrica del divertimento inesauribile e inesaurita. Allora, io prenderei a prestito un titolo di un libro, anche questo ormai introvabile, di Lucio Lombardo Radice, che si intitolava Il giocattolo più bello, e che vale, perché diceva giustamente Giorgio, vale per i grandi, per i piccoli, per i vecchi, no? Che il giocattolo più bello, che cos'è? Il pensiero, che è sempre a disposizione. Quindi riattiviamo la mente e cerchiamo di essere meno frenetici e di riassaporare veramente, trovare una capacità di assaporare le esperienze, forse di non essere dei belli addormentati nel bosco che stanno lì in attesa del risveglio, del bacio del principe, degli sdraiati, le maniche e davvero diamoci da fare, ecco. Molto bene, grazie dottoressa Trinci, un abbraccio e buon anno. Buon anno. Grazie a Giorgio Dell'Arti. Giorgio, buon anno. Ricordiamo naturalmente il libro delle profezie, 60 celebrità che hanno dato la loro idea su quello che sarà nel 2014. Però Giorgio, guarda qua, intanto noi iniziamo a pensare quando tu ci chiederai, ecco, perché guarda che ci tocca questo lavoro, sai. Certo, così la dottoressa perché ormai Trinci l'abbiamo vincolato a forza, assolutamente noi accogliamo l'invito della dottoressa. Benissimo. Trinci, ci mettiamo al lavoro per Giorgio Dell'Arti, che abbraccio. Grazie, e a cui Giorgio, auguro un buon anno. Buon anno. Buon buon anno. Aspetta, buon anno. Fino a mezzanotte stasera, però. Dai. Almeno fallo per noi. Mezzanotte 01 sotto le coperte. Va bene. Noi nella seconda parte del programma spadelleremo un po', perché ci piace, lo fanno tutti, lo vogliamo fare pure noi. È vero. Ma faremo anche un tuffo nel passato e nelle tradizioni, e abbiamo per questo motivo chiesto nelle ultime ore di studiare qualcosa ad un altro ospite che ci farà compagnia nella seconda parte del programma. Lo salutiamo, però, Alessandro Marzomagno, scusa, ci siamo due indisciplinate, dovevamo intervistarti in questa parte. Ci senti, Alessandro? Sono qua. Hai tempo, fino alle 12:30 no. di stare con noi? Ma sì, ma certo. Anche perché ci racconti perché Pandoro e Panettone sono diventati dolci natalizi, ma anche le lenticchie, perché l'uva, se bianco, se nera. Non so se si è documentato sulle mutande, ma sono sicura che ci stupirà con effetti speciali. Andiamo. A tra poco. Mi dispiace, Harry. Lo so che questa è la notte di Capodanno, lo so che ti senti solo, ma tu non puoi arrivare qui, dirmi che mi ami e aspettarti che questo risolva tutto. Le cose non funzionano in questo modo. Beh, come funziona? Non lo so, ma non in questo modo. Allora proviamo così. Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile. Perché questo film ci va bene per tutte le trasmissioni? Harry, ti presento Sally, è veramente, come dire, un contenitore pieno di idee, di stimoli e soprattutto di situazioni che si adattano ai temi di cuore e denari. E poi lui com'è? E lui è simpatico e affascinante, è proprio il tipo che ci piace, quello che ci fa ridere, carino il giusto. E com'è Alessandro Marzomagno che abbiamo in linea? Intanto è un grande scrittore, perché ha scritto un libro bellissimo che si chiama L'invenzione dei soldi. Alessandro, buongiorno, buon anno, buongiorno, naturalmente. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Ciao, buongiorno Alessandro. Eccoci qui. E soprattutto, io l'ho appena pubblicato su Facebook, ha scritto proprio poco tempo fa, in occasione di queste feste natalizie, un pezzo per il sito l'inchiesta.it, l'inchiesta con la K, Pandoro e Panettone, storia di due dolci qualunque. Come mai ti sei avventurato su questo terreno enogastronomico anche, Alessandro? Beh, allora a questo punto dobbiamo fornire un'anticipazione, perché si tratta di una cosa che ho tratto dal libro che uscirà in aprile, che si occupa di... sarà una storia gastronomica delle eccellenze italiane. Fantastico. Ecco perché l'altro giorno quando l'ho chiamato era rinchiuso in biblioteca e non mi rispondeva al telefono. Hai capito? Sta facendo quindi delle ricerche. E allora, esatto. Intanto allora anticipaci quello che puoi. Insomma, il Panettone e il Pandoro sono uno che sono... Guarda, la cosa più divertente è che la storia della gastronomia si intreccia con la storia industriale. E per esempio c'è una bellissima storia del caffè, che è una vicenda tutta italiana, perché il caffè è stato portato in Occidente attraverso Venezia, che era il posto che aveva i contatti con Costantinopoli, con il mondo degli ottomani, per cui conosce per prima il caffè, ma poi diventa ovviamente un patrimonio di tutta Europa, perché viene... cioè, i caffè viennesi per esempio, no? Ma poi l'eccellenza italiana è l'espresso, e l'espresso è una storia industriale, perché l'espresso è una storia di macchine, di macchine per fare il caffè, di invenzioni, di miglioramenti, di industriali che si copiavano uno con l'altro, che cercavano di migliorare un caffè ce lo prenderemo sicuramente, ecco. Anche dopo il cenone per tenerci svegli. Ma Panettone e Pandoro li mangiamo a Natale, ma li mangiamo anche a Capodanno, quindi rientrano, guarda, nella tradizione. Con tutti quelli che ci hanno regalato probabilmente ce li portiamo anche fino a Pasqua, come spesso capita, perché non si butta via niente naturalmente. Poi speriamo che si convertano. Protettore della gola, due panettoni allora, al prezzo allora di uno, almeno nostro, qua a Milano. Allora il nostro nuovo santo protettore, perché noi abbiamo molto bisogno di una gola in perfetta salute. Però Alessandro Marzomagno, noi ti abbiamo disturbato naturalmente per raccontarci quello che stai scrivendo, ma anche per così un po' documentarci al meglio sul tema delle tradizioni. Allora, perché a Capodanno si devono mangiare le lenticchie, a parte il fatto che portano soldi, come l'uva, poi Nicoletta ce lo spiegherà ancora meglio. Il melograno. tutte le cose in Kitty. Raccontaci quello che hai scoperto, visto che ti ho obbligato a studiare nelle ultime ore. Ma di fatto le lenticchie era l'unica cosa che già sapevo, proprio perché simboleggiano i soldi in realtà. Sono un buon auspicio. La lenticchia ha la forma di una piccola moneta, e per cui un piatto di lenticchie in qualche modo simboleggia un piatto di denaro. E quindi è un buon auspicio, un buon augurio, quello di appunto avere questo cibo che è come avere un piatto di soldi, e mangiarselo, ingurgitarlo e fare proprio questo denaro. Ci vogliamo denaro provare a chiedergli anche della mutanda rossa? La mutanda, sei preparato? No. Senti che se la ride. Della verità, sul rosso sì, sulla mutanda meno, perché non sono riuscito a capire perché proprio la mutanda, ma qualche sospetto ce l'ho, per la verità. No, però basta un fiocchetto adesso, uno poi si mette. Il rosso è il colore della vita, no? È il colore della forza, il sangue è rosso. Quindi è il colore dell'amore, è il colore dei sentimenti. Ma vedi, anche un po' poeta. Ma certo, Alessandro, intanto tu hai parlato di panettone, hai parlato di lenticchie, forse parleremo anche di uva, nel caso ditecelo voi all'800240024, paese che vai, tradizione che trovi, e nello stesso tempo un po' alle tradizioni ci piace essere legate, ma tutto quello di cui tu hai parlato interesserà molto e manderà a nozze il nostro Stefano Polato, che è in linea con noi. Posso, Stefano, presentarti come il cuoco di Mangia con me? Certo che sì, buongiorno a tutti. Grazie. Buongiorno. A Stefano Polato abbiamo chiesto infatti di prepararci un menù alla cuore denari, quindi un menù salutare ma anche risparmioso. E nel menù di Stefano Polato vedo che appaiono il panettone e le lenticchie, ma proprio come ci raccontava Giorgio Dell'Arti, Stefano le ha interpretate e ha cambiato un po' i loro ruoli. Stefano. Sì, visto che prima si parlava di radicamento e rinnovamento in cucina, l'ho traslato in tradizione e innovazione. Quindi partiamo con un antipasto dove ho riutilizzato il panettone, che prima si diceva che a volte ce lo portiamo fino a Pasqua. Per evitare questo lo riutilizziamo in un antipasto con del caprino fresco e delle noci che apportano la fibra necessaria per facilitare l'assorbimento dei grassi e degli zuccheri dello stesso panettone. Ecco, ma Stefano, ci dica un po', io prima, siccome Nicoletta un pochino mi aveva anticipato queste ricette, perché sono curiosa come una scimmia, volevo sapere, lei usa il panettone gastronomico, cioè quello che ha, come dire, un gusto un pochino salato, oppure possiamo utilizzare quello con i canditi e le uvette? Va benissimo quello con i canditi e le uvette, anche perché in questo modo riusciamo a creare anche un gusto innovativo, insomma il dolce e il salato che oggigiorno va di moda. Noci e invece caprino. Invece che il pancarè usiamo il panettone. Benissimo. Io la faccio sempre. Benissimo, benissimo. Stefano, perché perfetto. Io farò invece la ricetta che tu consigli di fare con le lenticchie, perché io, cari amici, oggi stasera mangerò i vincis grassi della mamma di Deborah, che mi ha portato una bella tegliotta, quindi ho già avvertito mio marito che già si pensava, no, con una fettina di salmone, invece noi facciamo festa. Benissimo, e quindi non sono una leggenda, hai visto che te li ho portati davvero? Quindi, poi scriverò le lodi, una ode alla mamma di Deborah, ma intanto le abbinerò con queste lenticchie che Stefano Polato ci fa preparare in un modo molto particolare. Sì, anche qui una variante, anziché utilizzarle come classico accompagnamento a zampone o cotechino, le usiamo per fare degli gnocchi, quindi utilizziamo appunto le lenticchie schiacciate nell'impasto direttamente al posto delle patate, e questo ci aiuta anche a diminuire l'indice glicemico, insomma, visto che eravamo partiti con il panettone, teniamo un po' a bada il tasso di zuccheri nel sangue evitando le patate, e le abbiniamo con gamberi e pistacchi, che molto spesso sia i pistacchi che le lenticchie le troviamo all'interno delle ceste natalizie, quindi è anche un modo per riciclare un po'. Esatto, per utilizzare quei prodotti che ritroveremo sicuramente in dispensa l'anno dopo, perché resterebbero inutilizzati. Le voglio leggere, tra l'altro, Polato, quello che ci ha scritto proprio poco fa, è una notizia di 3 secondi fa, la CIA, la Confederazione Italiana degli Agricoltori, che naturalmente ha fatto un po' un punto della situazione su quello che sarà il consumo quest'anno di questo prodotto, anzi lo chiamano proprio il legume simbolo di Capodanno, è corsa all'ultimo sacchetto di lenticchie, dicono gli agricoltori, gli italiani non possono farne a meno per salutare il vecchio anno e accogliere quello nuovo, ma certo con la crisi e la necessità di risparmiare è davvero boom Per il legume, simbolo di Capodanno, così come per gli altri prodotti della tradizione come zampone e cotechino. Rosse o verdi, piccole o grandi, cotte nel sugo di pomodoro o in bianco, le lenticchie restano assolutamente a buon mercato e le famiglie ne consumeranno il quantitativo super di oltre 5 milioni di chili, con un aumento del 10% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Hai sentito? Fantastico! Io devo dire che le lenticchie non le mangio solo a Capodanno, no, faccio anche minestre un po' tutto l'anno, ma adesso farò gnocchi di Stefano Polato. Io direi di andare a sentire Giuseppe, che ci chiama molto da Torino, volentieri, e poi Luca, che ci chiama da Trento. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, buongiorno e auguri. Grazie altrettanto. Che dire, io volevo sperare, ecco, lanciare un auspicio, che chi produce, o meglio chi decide sulla produzione in Europa, si ricordi che il lavoro deve rimanere in Europa. Ecco, si parla tanto di crisi, del fatto che dobbiamo passare alle lenticchie invece che al foie gras, ma ecco, sarebbe bello che chi produce lo faccia in Italia, dove la manodopera non è a basso costo, dove c'è attenzione all'ambiente, dove il welfare si paga. Mentre invece produrre in altri paesi, come sapete, ha un basso costo, nessuna attenzione all'ambiente e niente previdenza. Speriamo che qualcuno se ne ricordi. Giuseppe, grazie per questa sua osservazione che ci richiama appunto all'attenzione questo problema, che comunque è poi anche un'opportunità per molte aziende delocalizzare la manodopera, perché appunto in tanti posti del mondo costa molto bene, molto, molto meno. E Alessandro Marsomagno, magari un commento, è il grande fenomeno dei tempi recenti questo. Ah beh sì, non c'è dubbio, questa cosa di far fare di importare i cibi da fuori, però insomma anche qua io ci starei un po' attento, perché se voi pensate a tutte le tipicità della cucina italiana, non sono italiane, pensate al pomodoro, pensate alla pasta, sono tutte cose che ti arrivano da fuori, per cui anche qui dobbiamo sempre fare la tara, dire nostro, loro. Noi abbiamo sempre importato e fatto proprio e trasformato, e quindi insomma nulla ci impedisce di farlo anche oggi, e che poi non sappiamo. Però devo dire il tocco che mettiamo noi. Esatto, no, il tema è che comunque di questa globalizzazione dobbiamo prendere tutto, non solo le opportunità, cioè di portare i nostri prodotti in tutte le altre parti del mondo, ma magari importare anche qualcosa o esportare qualcosa, come in questo caso appunto il lavoro. Non lo so, io capisco la, come dire, frustrazione dell'ascoltatore, che ha anche ragione per certi aspetti, è anche però vero che qua. Io direi che possiamo proprio aprire i microfoni ai nostri ascoltatori all'800240024, raccogliendo quelle che sono le loro aspirazioni, le loro riflessioni, le sfide, i progetti per il 2014. Ma come lo festeggia Luca da Trento? Nessuno in Italia questo Capodanno. Luca, buongiorno. Buongiorno, non esageriamo. Già mi viene da ridere. No, ma da sorridere in maniera affettuosa, naturalmente. Ce lo racconti un po'. Beh, niente, noi lo festeggiamo alla russa, perché mia moglie è russa, siamo sposati da tanti anni ormai, e comunque la prima tradizione che seguiamo è guardiamo sempre il 31, tra qualche ora, un film che si chiama Il blues di Capodanno, il blues della sauna russa, che è una storia molto simpatica che riguardiamo ogni anno, e è la storia di questi quattro bachelor che si ubriacano nella sauna, uno viene spedito a San Pietroburgo invece che a Mosca, per sbaglio, e conosce l'amore della sua vita. Dai. Ed è un film comico in realtà, molto divertente. Ma lei, Luca, divertente. Tutti gli anni questo film? Tutti gli anni. Da quanti anni? Da 12-13. Sa quasi le battute a memoria, esatto. Luca. Però ogni volta si scopre qualcosa, ci sono cantoni, ci sono cose. Insomma, guarda, è vero, film. Luca, io allora devo confessarvi che Hollywood Party te lo sarei visto 5 una miliardi. Guardatina ogni Capodanno gliela do, perché secondo me mi mette troppo di buon umore. Il film di Capodanno non ce l'ho, ce ne ho altri che guardo milioni di volte, però non sono quelli a Capodanno. Luca, ma sua moglie qualche cosina di russo, a parte l'insalata, gliela cucina? Poi certo fa l'olivier. Che è quello che noi chiamiamo insalata russa, ma che in realtà è diversa ed è molto più buona, ovviamente. Certo. Si fa un bel catino di olivier. Ma come si, si fa? Sentiamo se Stefano Polato la conosce. Stefano, la conosci? No, purtroppo lei. No, ma lei ci dica che cos'ha questo Luca, olivier. Non è che la mangia da 12 anni. Luca, cosa c'ha dentro? Va bene, ci sono i piselli, le patate, che devono essere o russe o tedesche. Va bene, poi ci sono c'è dentro il prosciutto, olio Nair, se non si trova il prosciutto cotto, no? Sì. E poi ci sono i citrioli in agrodolce. Guarda, sarebbe perfetta la smetana, che è la panna acida. Bene, in quanto a tradizioni invece, Luca, a parte le mutande rosse che le regala sua moglie, che cos'altro? ci si scambia i regali, ecco, per cui noi non facciamo Natale, ma lo facciamo appunto l'ultimo dell'anno, a mezzanotte si scambiano i regali. Sua moglie non sente, cosa ha regalato? Ah, no, non penso sia, ho regalato un tagliere della Spagnoli. Ma questo è un marito che tutte vorrebbero, guarda qua, cioè, da 12, da 13 anni si guarda lo stesso film con la sua signora. E va bene, Luca, grazie molto e buon anno. Ci mandi la ricetta dell'Olivier, perché noi qua siamo delle, non la conosciamo. Grazie, sì, buon anno. Grazie. Anche altrettanto. Arrivederci. 800240024, era contento Luca. Era molto contento, ma sarà ancora più contento quando completeremo il menù con Stefano Polato. Brava, mi hai letto nel pensiero, Stefano. Sì, allora continuiamo, visto e considerato che dopo Natale i regali iniziano già e le sorprese iniziano già a mancarci, facciamo dei bei cartocci da servire ai nostri commensali e da lasciar scoprire loro cosa c'è all'interno. E all'interno ci mettiamo uno sgombro con agrumi, visto che in questo periodo sono di stagione, io ho messo dei mandarini, ma andrebbero bene anche delle arance profumate e rosmarino. Quindi arriviamo in tavola con il cartoccio chiuso a mo' di caramella e il commensale trova la sorpresa. Certo, mettiamone anche qualcuno vuoto. Esatto. Ecco, chi aprendo il cartoccio non trova nulla paga pegno, esatto. Potrebbe essere, no? Sì. Posso leggere questo messaggio di Lucius su Facebook che mi devi aiutare ad interpretare, perché io lo capisco solo fino a metà. A casa con lenticchie e cotechine, fin qua ci siamo, poi ai carugi a festeggiare. Ai carugi, che sono le viuzze della Genova vecchia vicino al porto. I carugi sono come le calle veneziane, piccoli, sono strettini, molto, cioè, veramente qua abbiamo spalancato le porte sulla mia ignoranza, che è veramente senza fine. Boxer rossi, no parenti e no colleghi, buon anno a voi bellissime signore, a risentirci all'Epifania. Vedi, un genovese di buon gusto, eccolo qua, che boxer, salutiamo, esattamente, coi boxer rossi. Allora, Filippo, buongiorno, ci chiama da Brescia all'800240024, supera la barriera rosa, continuate a saltarla, che chissà se diventerà un po' più buona dall'anno prossimo la nostra rosa longobardo del centralino, alle quali facciamo tanti auguri, oltre a lei anche a Nicole, Sabrina e le altre ragazze. Le ringraziamo tutte. Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno. Telefono anch'io da Brescia. Sì. Anch'io volevo dare una nota di speranza, e penso di avere tutte le carte in regola per poterla dare. Io l'anno scorso, proprio come oggi, sono stato ricoverato in ospedale, ho fatto un infarto, devo solo dire che, a differenza di quanto viene detto da qualcuno, parlando male sempre, perché siamo abituati a parlare male sempre di tutto, io sono stato seguito già quella notte, giorno e notte, e poi nei giorni a seguire ho messo uno stent, io sono ritornato a rivivere e grazie sicuramente all'intervento che hanno fatto là in ospedale, ma grazie anche alla professionalità di tutti gli operatori. Sì. Ma il fatto è che io ho avuto questa esperienza e penso che tanti altri come me abbiano avuto questa esperienza, e spesso ci dimentichiamo di ringraziare anche questo Stato che, nonostante abbia mille problematiche, abbia mille colpe, ha anche tantissime cose che funzionano bene. Io ho una famiglia, ho una figlia di 30 anni che si è laureata, lei è andata in America a 17 anni e è diventata la prima del liceo che ha frequentato là in America, si è diplomata con 100 centesimi, si è laureata con 110 e lode a braccio accademico, ha rinunciato per sua volontà a una carriera che poteva fare in televisione, perché ha visto come girava il mondo nella televisione, ci regala questa sera la sua presenza, e quindi noi passeremo il nostro anno, il nostro 2013, lo saluteremo al Teatro Ponchielli con nostra figlia. No, tra l'altro, guardi, volevo fare il complimento a questo ascoltatore, perché tocca un tema. Lui ha lasciato andare questa figlia negli Stati Uniti, tra l'altro era molto giovane, quindi un invito anche a tutti quei genitori un po' troppo chioccini, che ingabbiano un po' troppo questi figli, lasciamoli andare all'estero, magari poi per farli ritornare, perché è giusto che sia così, ma non come dire, stringiamoli dentro le nostre grinfiette, perché poi così ci piace come genitori italiani, anche se io non lo sono, lo dico sempre, però però che ne dici, Nicoletta? Assolutamente. Tu invece una mamma, un pochino queste opportunità oggi sono assolutamente indispensabili per guardare non solo al nuovo anno in maniera positiva, ma proprio a tutto il futuro dei nostri ragazzi. E noi continuiamo a guardare al nuovo anno, continuiamo ad aspettarlo, ma continuiamo a sederci a tavola e a cucinare ancora prima di sederci a tavola con Stefano Polato, che per il dolce ci... Non sarà mica con uno scontato Pandoro Polato. Eppure sì. Vabbè, ma voglio proprio sentire cosa c'è dentro, perché... Sì, ok. Lo saltiamo in padella, visto che prima si parlava di spadellare. Vogliamo non saltare in padella al Pandoro? Certo che sì. Lo tagliamo a dadini, lo saltiamo in padella con dei dadini sempre di ananas, aromatizziamo un attimo con una grattugiata di zenzero e lo accompagniamo ad una mousse al cioccolato. Un cioccolato preferibilmente extra fondente, che sia almeno 70% cacao, e in questo modo facciamo una mousse senza latticini, senza appesantire il pasto, senza panna, senza latte, senza niente, semplicemente con delle uova montate. E in questo modo, dicevo, andiamo a mettere, ad aggiungere, appunto, come facevamo nell'antipasto, le fibre necessarie per poter assorbire in maniera rapida e veloce gli zuccheri e i grassi del Pandoro. Insomma, questo è un menù con il trucco, perché è risparmioso, è tradizionale, ma ha il trucchetto, perché Stefano Polato ha abbinato degli ingredienti in modo tale che in sinergia reciprocamente si aiutano. Hai preso appunti, perché la ricetta la scriviamo sul profilo Facebook della nostra trasmissione, che gli ascoltatori stanno già chiedendola. Le ricette sono tutte sul nostro profilo Facebook, sulla pagina di Cuore Denari, perché Stefano Polato ce l'aveva già mandate prima della diretta. Infatti io sapevo tutto del panettone con caprine e noci. Posso fare un'ultima domanda ad Alessandro Marsomagno, che poi salutiamo, a cui auguriamo buon anno, perché appunto ho ricordato all'inizio che Alessandro ha scritto questo libro, L'invenzione dei soldi. E allora, Alessandro, se tu oggi dovessi metterti a scrivere il capitolo che racconta come sono stati gestiti i soldi nostri nell'ultimo anno, da che cosa partiresti? Adesso ti lancio un po' su questa provocazione, in modo tale che possiamo farne un buon uso l'anno prossimo. Ma io partirei da questa fantomatica crisi dell'euro, che, come si è visto, poi in realtà non esiste, perché non è una crisi sui fondamentali, sui numeri della moneta, ma era semplicemente una crisi psicologica. Cioè, a un certo punto, per una serie di eventi, si è pensato che l'euro non fosse più una moneta affidabile. Si parlava dell'uscita della Grecia, ma in prospettiva anche di altri paesi dell'euro. Oggi non se ne parla più, anzi c'è anche un paese che, ricordiamo, la Lettonia, che dal primo gennaio entra nell'euro, e per cui diciamo la crisi economica rimane, ma la crisi dell'euro, come era intesa un anno fa, non so, ve lo ricordate, no? L'inizio dell'euro un anno fa, adesso non esiste più. E questo dimostra ancora una volta che il denaro, che la percezione del denaro è psicologica. Il denaro è soprattutto uno strumento politico. Il denaro è psicologia, non è solo uno strumento, un mezzo di pagamento. Mi hai dato una bella idea, lo dirò perché? A mio marito quando mi dice Nico, ma lo direi Carlo, amore, ma è psicologico, lasciamo stare. Alessandro, grazie per i tuoi stimoli, buon anno a te, alla tua famiglia, buon anno a tutti, ai tuoi lavori, e naturalmente mandaci il tuo libro sulla storia della gastronomia italiana, su almeno certi aspetti, quando sarà pronto, perché ti invitiamo molto volentieri di nuovo. Certo, posso dire una cosa. Stefano Polato prima diceva che adesso va di moda mescolare il dolce e il salato, salato, e invece in realtà non ci siamo inventati niente. Nel Rinascimento il dolce e il salato erano tutt'uno. E beccati questa come ultima pillola dell'anno. Grazie Alessandro. Grazie a Stefano. Grazie a Polato. Grazie Polato. Grazie a Paolo Corleoni in regia, la parte Laura tecnica. Vanossi, Marco Lombardo, che ancora deve tornare dalle ferie. Nicoletta, tanti auguri di buon anno con tutto il mio affetto anche a te. Anche a te, Deborina. Ci ritroviamo il 2 gennaio, naturalmente. Buone feste a tutti.